Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. L'eolico è balzato in vetta alle cronache, suo malgrado direi, per alcuni fatti denunciati in particolare inizialmente dall'Espresso. Si parla di irregolarità nelle procedure che hanno portato all'autorizzazione di alcuni impianti. Ma quali sono queste procedure? Ebbene, come per tutte le fonti rinnovabili, il riferimento è la cosiddetta autorizzazione unica, un procedimento autorizzativo durante il quale vengono raccolti tutti i dati e sentiti tutti i pareri necessari, per esempio gli enti locali, le istituzioni preposte alla tutela del territorio. Cerchiamo allora di capire un po' meglio di che cosa si tratta e come si potrebbe combattere la tentazione, diciamo così, di abusi. Ne parliamo con Andrea Marchisio, responsabile dell'eolico di Aper, l'associazione produttori energie rinnovabili. Buonasera Marchisio. Buonasera. Iniziamo quindi dalla procedura. Quali sono, per esempio, i dati più rilevanti, quelli anche più critici, in base ai quali si decide se autorizzare o meno la nascita di un parco eolico in un certo posto? Certamente sì, per gli impianti eolici, diciamo, la caratteristica principale riguarda la valutazione di quelle che sono gli impatti visivi e della relazione dell'impianto col paesaggio. Quindi comunque questo all'interno della procedura di autorizzazione deve essere valutato in tutti i casi. Gli operatori che vogliono proporre un progetto effettuano una richiesta di autorizzazione che deve essere accompagnata comunque da tutta una serie di studi che possano dare effettivamente contezza di quello che poi è un progetto una volta realizzato. Ecco, per esempio, che tipo di dati bisogna fornire? Per esempio bisogna comunque fornire dei dati relativi all'analisi visiva dell'impianto di intervisibilità, e su questo per esempio ci sono delle simulazioni grazie a software piuttosto sofisticati. Ci sono analisi anche sull'impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico di una zona. Devono essere effettuati anche dei monitoraggi sulla avifauna stanziale o migratoria. Certo, per verificare che non disturbino, non si trovino su rotte migratorie particolarmente sensibili. Esatto. Poi bisogna anche dire quante ore di vento ci sono, anche perché su questo fatto c'è molta confusione. Ancora si parla della possibilità di, come dire, prendere soldi per impianti che poi restano delle cattedrali nel deserto. In realtà questo non è possibile, perché viene riconosciuto un incentivo per l'energia prodotta, non per il fatto di costruire un parco eolico. Esattamente, non sarebbe interesse di nessuno comunque installare un impianto eolico senza comunque avere la garanzia che questa abbia comunque una sufficiente producibilità nel tempo, e questo comunque deve essere anche verificato in fase di autorizzazione, poiché il richiedente l'autorizzazione deve anche presentare dei dati basati su una campagna anemometrica che comunque deve precedere. Una misurazione del vento che dura almeno 2 anni, credo. Sì, diciamo un periodo ottimale compreso fra i 18, almeno tra i 18 e i 24 mesi di campagna anemometrica per avere una visione completa di quello che può succedere. Ecco, quali sono gli aspetti progettuali di cui avere cura per rendere il più possibile accettabile l'eolico? Sì, esistono comunque delle caratteristiche direi universali di buona progettazione, innanzitutto per quello che riguarda la disposizione poi delle turbine, dell'impianto, in modo da evitare quelli che sono chiamati effetto selva o effetto barriera. Cioè in pratica si dispongono secondo una griglia tale per cui dai punti di vista più sensibili, per esempio dove si trovano dei paeselli, le paleoliche risultano in fila e si evita questa specie di bosco che altrimenti si crea. Esattamente, e anche comunque un elemento positivo una disposizione che comunque segua le linee caratteristiche del terreno. Per quanto possibile, perché poi è inevitabile, le paleoliche si vedono. Ecco, tra l'altro altri accorgimenti, il colore per esempio, per fare in modo che si confondano un po' con lo sfondo del cielo, che le vernici devono essere antiriflesso, insomma gli accorgimenti si mettono in opera un po' tutti, o almeno così dovrebbe. Esatto, per esempio anche l'adozione delle torri eoliche tubolari e non a traliccio, che comunque sono più brutte. Nonostante però tutti questi accorgimenti, nonostante ci sia una procedura ben definita, dalle notizie che sono uscite sembra evidente che qualche spazio, qualche via di fuga per delle irregolarità ancora ci sia. Come associazione, come proponete di combattere questo tipo di fenomeni? Sì, diciamo che questo è maggiormente imputabile a una situazione di scarsa un po' trasparenza della procedura e comunque delle fasi amministrative, che fondamentalmente favorisce una discrezionalità da parte dei soggetti che autorizzano e danno la possibilità o di allungare ingiustificatamente i tempi di autorizzazione, chiedendo per esempio continua integrazione al proponente, oppure al contrario, il rischio è di favorire alcuni soggetti in maniera discriminatoria nei confronti di altri. Come si potrebbe fare quindi? Pubblicare su internet per esempio costantemente? È una soluzione anche comunque dare maggiore visibilità a quelli che sono i procedimenti autorizzativi in capo a una regione, a una provincia, per esempio appunto pubblicando sul sito internet il numero delle richieste pervenute, quelle che concluse esito positivo. Cosa sta accadendo in itinere forse, che è ancora più interessante. Mi pare che poi l'altro problema sia l'enorme disuniformità dei criteri, perché ogni regione ha fatto un po' quello che voleva e di questo però abbiamo già parlato. Grazie Marchisio. Grazie, arrivederci. Bene, nonostante tutti i problemi, pare proprio che però l'eolico piaccia agli italiani, questo almeno viene fuori da una ricerca che è stata commissionata appunto da Aper all'istituto guidato da Mannheimer. I risultati verranno presentati l'8 giugno a Roma. Domani Mr. Kilowatt torna per parlare di come usufruire delle detrazioni fiscali del 55% per l'efficienza energetica nel settore delle costruzioni. Buona serata.